magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. She's got me so blind I can't see it. That she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Now don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Super Lovers. Sono 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, e 101.5 per Verona città e rimanente provincia. 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche in web streaming dal sito www.radiorcs.it. E dal rock inglese e americano degli anni 70 ad una parte dove ascolteremo alcune storiche esibizioni live di grandi del rock immortalate su dischi. La prima canzone era Black Magic Woman dei Fleetwood Mac dal live at Boston Tea Party del 1970. In quella formazione brillavano i chitarristi Peter Green, Jeremy Spencer e Danny Kirwan a formare una frontline a tre chitarre che poi avrebbe poi influenzato molte band americane. Una vostra impressione sul loro sound? Sound incredibile, un periodo musicale a me molto vicino e nel senso di gusto, quindi ci ha indovinato, dai, non ci sono parole, è nato tutto da lì, hanno influenzato tutto. On the road to you è il titolo del vostro disco, qual è il significato di questa frase? On the road to you è il viaggio verso una persona immaginaria che è la nostra complice, la nostra compagna, la nostra metà. Un viaggio che è come su un tapirulan, che è sempre in continuo movimento, perché quando ti sembra di averla trovata poi la perdi magari per un motivo futile oppure te la fai scappare di mano, insomma, quindi on the road to you, verso di lei. I Grateful Dead di Jerry Garcia sono noti per i loro interminabili live show sin dagli esordi. Noi ci ascoltiamo il primo disco live realizzato, che è Live Dead, inciso nel 1969 con Saint Stephen. Yeah. St. Stephen with the rose. Leaning out of the garden he goes. Country garden in the wind and the rain. Wherever he goes, the people all complain. If they only knew how. Wishing well with the golden bell, bucket and hanging clear to hell. Heaven, gracious, now and then. Fill it up and lower down and lower down again. Lady finger dipped in moonlight, writing what for across the morning sky. Sunlight splatters done with the answer. Darkness shrugs and bids the day goodbye. Speeding arrow, sharp and narrow. What a lot of fleeting matters you have spent. Several seasons with their treasons. Wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Did it doubt or did it try? Answers are plenty in the by and by. Talk about your penny, talk about your heels. One man goes. I Grateful Dead sono una di quelle pochissime band che è sopravvissuta alla stagione del flower power degli anni 60, passando quasi indenne i decenni fino alla tragica morte di Jerry Garcia. Secondo voi qual è il segreto di una longevità artistica così duratura? Questa è una bella domanda. Il segreto è sicuramente un mistero in questo caso, perché insomma, se lo sapessimo andremo avanti anche noi 30 anni. Un po' come chiedere a uno appena sposato come si fa ad arrivare alle nozze d'oro. Sicuramente talento, alchimia umana, fortuna. È un seguito di pubblico non da poco. Quello sì. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Sono molte e varie. Si va dal rock americano in primis anni 90, quindi il primo grunge, fino a cose più indietro, anni 70. Per quanto mi riguarda, ad esempio, il blues, il primo British blues. La cosa bella è che si sono fuse tutte insieme senza aver pensato nulla a tavolino. Ci siamo trovati io e Davis, lui aveva già qualche pezzo pronto, prima abbiamo lavorato un po' su dei pezzi suoi, poi su delle idee create insieme ed è venuta fuori così. Chiudiamo allora la seconda parte con Dylan e Bonnie and Friends, il duo Southern Soul, marito e moglie, accompagnato da una formazione All Stars in cui vi erano George Harrison e Eric Clapton, dal disco On Tour del 1970 con la canzone I Don't Want to Discuss It. Sarà poi la volta dei Super Lovers che ci faranno ascoltare 6 brani dal disco On the Road to You. Rimanete all'ascolto. Go, go, go.